Radio 24 presenta Il riposo del guerriero con Stefano Gallarini. Le 10:08, buona domenica, da Stefano Gallarini comincia Il riposo del guerriero e oggi insomma cercheremo di comportarci particolarmente bene, perché l'argomento sarà il bon ton, la buona educazione, e cercare di ritrovare insomma almeno il senso di salutarsi al mattino quando ci si incontra, anche quando non ci si conosce. L'ascensore, per esempio, che è quel luogo terribile dove sei costretto a stare con altre persone che non conosci e che richiede di solito un buongiorno, a che piano va, oppure il silenzio più totale, no? C'è sempre un po' di imbarazzo, però io credo che così il comportarsi in modo corretto, ma in senso lato, perché oggi davvero scopriremo come comportarsi in modo corretto valga davvero per tutti, non per le forme di cortesia, ma anche per le istituzioni. E valga per le bollette, ne parleremo tra pochissimo con uno dei nostri ospiti. Di questo parliamo, chiaramente potete anche voi raccontarmi che cosa detestate, per esempio, quali sono gli atteggiamenti maleducati che non sopportate più e qual è magari il vostro modo di intendere l'educazione. I messaggi, come sempre, al 349-238-6666, poi c'è la nostra pagina di Facebook, Il riposo del guerriero, e il numero verde, non per educazione, ma per giocare. Alle 11:30 infatti ci sarà il mistero in 24 minuti, la possibilità di portarvi a casa fino a 1000 euro da spendere su libreriarizzoli.it e come sempre in base agli indizi che ascolterete dovrete scoprire se si tratta di una notizia e quale, oppure di un personaggio o qualcosa di famoso. Il primo indizio ve lo faccio ascoltare subito. Gira il mondo, gira nello spazio senza fine. Eccolo qui, questo è il primo indizio, il mondo di Jimmy Fontana. Il numero verde per prenotarvi, potete farlo anche subito, 800 24 00 24. Siccome una delle regole, diciamo così, della buona educazione in fondo è non accettare niente dagli sconosciuti, dire le preghiere prima di andare a dormire, ringraziare per quello che si ha, ed è quello che racconta la mamma Chaka Khan prima di andare in prigione, perché viene arrestata, è quello che lei racconta alla figlia, si raccomanda di farle fare nel momento in cui lei appunto sarà dietro le sbarre. Little darling, gotta go now, don't know when I'll be coming back, got my future all planned out, I got my bags packed. Say your prayers at night. Remember God, He made you, and one day He'll make everything alright. Don't cross on a yellow, you always gotta wait for a green light. Remember God, He made you, and one day He'll make everything alright. Ooh. Little darling, gotta go now, don't worry, you'll be just fine. When it comes to good luck, I know you'll always be first in line. Nobody will ever love you as much as I do, as much as I do. But that doesn't mean strangers, but Mom will be back. Now listen, don't talk to strangers. Don't forget to say your prayers at night. Remember God, He made you. And one day He'll make everything alright. Mi spiace se insomma non avete capito il testo di questa canzone in inglese, capisco, sarebbe averlo sotto mano e poterlo tradurre, però insomma nel testo della canzone di Chaka Khan c'è la richiesta alla figlia di comunque salutare gli altri, dare un buongiorno, avere considerazione per gli altri, perché poi gli altri avranno considerazione per voi, ed è una delle cose delle quali discuteremo oggi nel riposo del guerriero. Intanto devo cominciare con un saluto e un ringraziamento, lo faccio a Ilvo Diamanti, sociologo che sicuramente conoscete perché avrebbe dovuto partecipare molto volentieri, poi però non ha potuto, ma da qualche giorno è uscita l'edizione ampliata e aggiornata del suo sillabario dei tempi tristi. Allora volevo leggervi uno stralcio proprio sul buongiorno. Da sempre ho l'abitudine di salutare, sempre, quando incontro qualcuno. L'ho appresa da bambino, frutto di un'educazione tradizionale, si direbbe oggi. L'ho mantenuta fino a oggi. Così, nei miei percorsi quotidiani, saluto tutte le persone che incrocio, soprattutto intorno a casa, a Caldogno, quando mi faccio guidare dal cane, oppure a Vicenza, in centro, o ancora a Urbino, o a Urbania, a volte anche altrove. Quando incontro qualcuno, da solo, mi è difficile fingere di non vederlo, di togliere lo sguardo, ma poi perché? Allora saluto con un cenno, con un buongiorno, un ciao, quando si tratta di una persona conosciuta. Serve a stabilire una relazione, un legame. Nulla di vincolante, ma la persona con cui hai scambiato il saluto dopo non è più un altro, diventa un prossimo, magari non troppo prossimo, perché il prossimo è qualcuno che ti sta vicino dal punto di vista della distanza, non tanto solo fisica, ma emotiva e cognitiva. La persona che saluti diventa qualcuno che riconosci, anche se non lo conosci. Qualcuno che a sua volta ti riconosce per reciprocità, un quasi prossimo, un non estraneo. Un cenno di saluto serve dunque a tracciare un perimetro dentro il quale ti senti maggiormente a tuo agio. Meno estraneo, come avviene dovunque tu conosca o almeno riconosca qualcuno, altrimenti per quel che mi riguarda mi sento spaesato, fuori contesto. Non dispongo, cioè, di un testo condiviso, di un linguaggio comune ad altri, anche se espresso senza parlare. Perché non c'è bisogno di parole per comunicare con gli altri, se non amici, non conoscenti, o almeno riconoscenti. Non è sempre facile, lo ammetto, anzi lo è sempre meno, soprattutto da quando l'urbanizzazione ha stravolto i luoghi in cui vivo, dove abito, da quando lo spazio intorno a casa si è condensato e al tempo stesso liquefatto, sovraffollato, si è trasformato in una piaga immobiliare, una non città, dove sono affluite centinaia e centinaia di persone sconosciute. A me, ma anche tra loro. Non è facile salutare le persone che incontro. D'altronde è divenuto sempre più difficile trovare un po' di verde. Guidato dal mio cane, allungo il percorso e mi sposto sempre più in là, sempre più lontano. Anche se ormai gli spazi verdi sono quasi scomparsi. E i pochi rimasti sono destinati a scomparire presto, inseguiti ed erosi da nuovi insediamenti residenziali, da nuove strade, da nuove rotonde. Così, mentre costeggio cantieri e prati residuali, case abitate e altre che verranno, incontro per lo più altre persone che accompagnano i loro cani, o viceversa. Ma è difficile rivolgere loro un saluto, perché non mi vedono, occupate al cellulare, a parlare con altre persone lontane, oppure isolate da tutti, soli, con i loro iPod. Il prossimo, ha scritto Luigi Zoia, è morto da tempo, sostituito da surrogati elettronici che offrono mediazioni mediatiche infinite, promuovono rapporti indiretti e impersonali, apatici invece che empatici. Ma io non mi rassegno e continuo. Continuerò a cercarlo, il prossimo, a costruirlo, raffigurarlo, intorno a me almeno. Il prossimo, anche se ridotto a un saluto, un cenno del capo, non rinuncerò a guardare gli altri in faccia, per egoismo, per non sentirmi circondato solo da altri, cioè per sentirmi meno solo. Buongiorno anche a te, e poi nasce il sole, mi accorgo che vesto male, ma sempre addosso un po' di te. Qualcuno va via, il resto è da inventare. Francesca Dragotto, cominciamo da te, buongiorno. Buongiorno, buona domenica. Allora, come ricercatore nel settore glottologia e linguistica dell'Università di Roma Tor Vergata, partiamo subito col buongiorno, ovviamente, col salutarsi. Sì, buongiorno. Buongiorno, appunto. Allora, perché ci si saluta innanzitutto? Ci si saluta prima di tutto per iniziare una punteggiatura che poi costellerà tutto quanto lo scambio comunicativo, per passare dal silenzio all'interazione. Un esempio di saluto o non saluto è il pronto che diciamo quando rispondiamo per telefono. La parola pronto non ha nulla a che vedere con l'essere pronto, o meglio etimologicamente sì, però dal punto di vista della funzione che ha nell'ambito della telefonata, pronto serve semplicemente a far capire all'interlocutore che siamo in attesa, che siamo in linea. Immaginiamoci cosa potrebbe succedere se alzando il telefono rimanessimo in silenzio. Il silenzio totale, cioè. Esattamente. E l'altro anche, quindi continua così, in silenzio per 20 minuti. Esatto. Allora, tra l'altro salutare arriva da salute, vero? Per cui augurare, sì. Sì, sì, sì, è un verbo che troviamo attestato nel latino e originariamente è un composto da salutem dare. Salutem dare nel senso di augurare salvezza, augurare benessere, augurare benevolenza. A un certo punto quando la formula diventa logora, perché viene molto utilizzata, si perde l'idea della salvezza e rimane l'idea appunto del saluto. Però etimologicamente abbiamo dietro il concetto di salus. Ecco, quindi appunto la salute, augurare buona salute, quindi il saluto fa sempre sicuramente bene. Senza. E come fa bene anche la buona educazione, ma questo dicevo all'inizio in senso molto lato, perché tu così pensando hai creduto di poter legare la buona educazione anche alle istituzioni, partendo dalle bollette della luce e del telefono forse. Beh sì, più che partire noi dovremmo arrivare alla buona educazione delle bollette, mi spiego. In una comunicazione si presuppone che ci sia una fatica, un certo lavorio, un insieme di azioni che servono a produrre un testo che poi è destinato a trasmettere un contenuto. Ora, il lavorio che è necessario alla produzione di un testo deve essere assunto o da chi produce il testo stesso, quindi il mittente, o dal destinatario. Se vogliamo appunto utilizzare un atteggiamento di bon ton, allora dovremmo fare in modo di essere noi ad assumerci il carico maggiore, perché per mettere in condizione il nostro destinatario, chiunque esso sia, di capirci. Il caso della bolletta è emblematico, perché la bolletta non ha un unico destinatario, ma una platea di destinatari dei quali non conosciamo l'estrazione, il grado di scolarizzazione, non conosciamo quindi la capacità di poter decodificare il testo che si troverà davanti, e sarebbe buona educazione fare in modo che la bolletta fosse completamente trasparente, per poter permettere al destinatario di capire per che cosa sta per corrispondere un emolumento, un pagamento. Ecco, quindi ancora una volta è una questione di linguaggio. Se uso un linguaggio comprensibile da una platea più ampia, ovviamente così sarò ben educato, nel senso che cercherò di farmi capire da più persone, insomma, quindi sì, richiedendo anche uno sforzo minore. Questo, traslandolo ovviamente, Francesco, nel comportamento della quotidianità, non rischia di in qualche modo impoverire? Che intendi con impoverire? Usando per esempio un linguaggio sempre più semplice per essere compreso da tutti, poi vado a impoverire il linguaggio. Ritorniamo al discorso che abbiamo affrontato già in varie altre circostanze, quello dei contesti. Sì. Perché a seconda del contesto è chiaro che io posso selezionare tra le varietà linguistiche che ho a disposizione quella che ritengo più adatta. Allora, se in un contesto di tipo formale, ad esempio se sto per sostenere un esame, se sto sostenendo un'intervista, magari però per una rivista specializzata, posso, non solo sono autorizzato, ma mi sento anche indotto naturalmente a scegliere la varietà più alta tra quelle quelle che ho a disposizione. Nel caso in cui mi trovi a parlare con qualcuno che non conosco e nella comunicazione legata ai mass media, o mass media che dir si voglia, è questo quello che accade, no? C'è un destinatario che è plurimo e un destinatario che è disomogeneo, non sappiamo quanti sono e chi sono. Allora in questo caso a costo di parere meno colti di quanto si è bene scegliere una varietà di italiano che sia più vicina alle varietà di base. Ecco, quindi è una questione proprio di educazione riuscire a parlare in questo modo. Parliamo della politica, per esempio, anche perché se si fa una ricerca su YouTube, io l'ho fatta, per cercare situazioni di poco bon ton, di maleducazione, devo dire che tantissimi video sono proprio quelli dei talk show politici, dove insomma ci si lascia andare a qualunque cosa. Allora, dove siamo? Nella più completa mancanza di educazione, perché poi credo che invece siano persone educate nella vita quotidiana. Ma diciamo che negli ultimi anni c'è stata proprio una rottura di quello che potremmo chiamare quasi un testo genere, nel senso che il dibattito costituiva una sorta di terreno sacro all'interno del quale confrontarsi per riuscire a raggiungere la persuasione dell'ascoltatore. Questo presupponeva la conoscenza e il rispetto di un certo codice comportamentale. Naturalmente inserisco la comunicazione tra i comportamenti che si attuano nel momento in cui si interagisce con gli altri. Quello che è capitato negli ultimi anni è stata la rottura, il disuso di questo codice. L'esempio più eclatante è il mancato rispetto della presa di turno. Proprio prima parlavo di punteggiatura, questa volta voglio usare un altro tipo di similitudine, quella di una partita di tennis. Proprio come in una partita di tennis, all'interno di un dibattito ci si rimanda la palla. Sì. Ora, è chiaro che il gioco funziona fino a che si rispetta la regola, che consiste nel fare in modo che la palla non rimbalzi due volte e considerarla non più giocabile se non rientra entro un certo limite. Certo. Esattamente. Ecco, nel dibattito politico, se si confrontano quelli degli ultimi anni con quelli anche solo di 10-15 anni fa, ci si accorge che tutto questo insieme di regole è completamente saltato. E la differenza diventa davvero lampante se si confronta il dibattito politico italiano con quello anglosassone o con quello di altri paesi, cosa che con la TV attuale è molto facile fare. Si passa da un canale all'altro e ci si accorge che appunto a fronte di un rispetto di questa palla che va e che viene, della punteggiatura che è correlata a questo rimandarsi la palla, quindi non si usano determinate forme, si usano certe forme di cortesia, si decide di dare del tu o del lei e si mantiene la scelta di quella forma per tutta quanta la conversazione. Appunto, adesso non ci si trova più di fronte ad un qualcosa di così netto, ma ci si trova di fronte ad una accozzaglia di parole e al tentativo di riuscire ad imporre la propria visione, il proprio punto di vista, sopraffacendo gli altri verbalmente. Sì, si diventa più impositivi piuttosto che propositivi, cioè questo poi è quello che succede. Tu credi che ci sia un ritorno, cioè che arriverà un ritorno in qualche modo alla buona educazione, cioè comunque al saper vivere, a rispettarsi, ecco? Vorrei tanto dire sì, perché dopo aver toccato un certo tipo di fondo non si può che risalire, però il discorso è più ampio anche in questo caso, quindi se immaginiamo che la palestra prima per l'acquisizione delle regole comportamentali, così come per quelle linguistiche, è la scuola, ritorniamo al solito discorso. Sì. Dell'istituzione che, se carente, non permette alla nuova classe di formarsi e di conoscere determinate regole comportamentali. Bene, quindi sei stata molto chiara, quindi gli ascoltatori trarranno le loro conseguenze, ovviamente, le deduzioni dovute, assolutamente. Grazie davvero, Francesca, come sempre, e sei stata illuminante. Speriamo in bene il futuro dell'educazione. Ciao, buona domenica. Buona giornata, buona domenica. Ciao, grazie. Arrivano intanto i vostri messaggi, vi ricordo ancora il numero 349-238-6666, la pagina di Facebook dedicata al riposo del guerriero. Adesso ne leggerò qualcuno. C'è chi dice: io non sono un ristoratore, Massimiliano, e la frase maledetta è che li fai du spaghi, ecco, cioè usa, dice io non sopporto come mi viene chiesto questo in questo modo, invece guarda la carta e chiedilo in un altro modo. E ancora, io odio chi non risponde, scrive Giulio in un sms, sia via mail, sms, posta, telefono, insomma ritengo che sia maleducato non rispondere. Oppure Claudio, che invece usa il buongiorno, dice io dico sempre buongiorno la mattina anche con le persone che usualmente incontro al bar, pur non conoscendole. Oriana invece dice io sorrido, questo è un buon modo per relazionarsi sicuramente. Prima Francesca Dragotto parlava di comunicazione, no? Così prendeva come esempio le bollette, che sono poco educate nel momento in cui sono difficili da interpretare, pur cercando di essere trasparenti sempre di più negli ultimi periodi, però non è sempre semplice, perché appunto il linguaggio è complesso. E c'è anche un linguaggio da decodificare a tavola, al ristorante, per esempio. Io, così per mia mania personale, o interesse, chiamatelo come volete voi, mi domando sempre come si debbano mettere le posate quando si decide di aver finito un piatto, anche se magari il piatto è ancora con su qualcosa. Cosa, no? Per evitare che il cameriere vi chieda ha finito, posso portarlo via, c'è un sistema ovviamente, e sono le posate messe alle 4:20, quindi bisogna ricordarsi questo orario, le 4:20, ed è giusto, perché in questo modo il cameriere, se vede le posate poste in quel modo, allora capisce che può portare via il piatto. E non solo, aiuterete anche a non far cadere le posate per terra, perché portando via il piatto in quella posizione le posate restano nel piatto, non scivolano via, e siccome il piatto va voltato via da destra se non mi sbaglio. E invece, se le lasciate a caso, allora automaticamente il cameriere è costretto a chiedervi e cosa vuole fare. Il piatto lo porto via o vuol finire il boccone che c'è ancora? Credo che sia necessario partire da lì. Roberta Bellinzaghi, buona domenica. Buona domenica a lei. Allora, Roberta Bellinzaghi insieme a Roberta Mascheroni ha scritto anche Galateo a tavola. Roberta, le chiedo per cortesia, o ti chiedo se posso darti del tu, di spegnere la radio, se no abbiamo questo ritorno. Io non ho radio accesa, ho acceso solo il computer, ma non penso che disturbi. Boh, però sentiamo un eco e va bene, allora sarà aspetta, così. Guardi, spengo anche quello. Non so come mai, ma comunque insieme hanno anche scritto Galateo del matrimonio, perché ci vorrà sicuramente, e il Galateo oggi sempre, tutto dei vecchi editori. Ho sentito anche lo spegnersi del computer. Roberta, eccoci qua. Allora, e da dove partiamo? Partiamo dal Galateo in generale, dalla buona educazione in generale in ogni frangente, forse. Sì, partiamo da quello e... Partiamo da questo. Io ho sentito prima un messaggio molto carino che mi è piaciuto e che condivido assolutamente, che è quello del sorriso. Sì. Il Galateo, che poi il Galateo, diciamo, è una parola che vuol dire tutto e niente. Il Galateo può essere etichetta, può essere un modo di sentire, un modo di vivere, cioè è un modo di rapportarsi con gli altri. Cioè, naturalmente noi viviamo in quanto siamo interconnessi con tutto, e questo è il Galateo in pratica. Ecco, in realtà bisogna, cioè c'è un codice che va rispettato semplicemente per essere compresi. Io credo che da lì si debba partire, non tanto per una questione solo di educazione. Esatto, perfetto, infatti nell'interrelazione ognuno cerca di esprimersi e bisogna per forza avere un'espressione che ci leghi un po' tutti. In fondo siamo tutti una grande rete e questo serve sapere se tu ti rivolgi a me con una determinata espressione, io so che io non ti sono simpatico, io so che è una specie, si viaggia un po' per simboli, si viaggia un po' per gestualità, si viaggia per stati d'animo, per circostanze, cioè è molto vasto il discorso ed anche semplice tutto sommato, perché ci si può rapportare con grandissima semplicità. Ecco, dove in questo momento, secondo te Roberta, si è particolarmente maleducati? Nella poca accettazione della diversità, secondo me, soprattutto in questo. Senti, la rete, per esempio, dà modo a tutti di esprimersi. Tant'è vero che è nata la netiquette, no? Quindi un esatto. Modo per scrivere, per comportarsi in rete che sia compreso da tutto il popolo della rete, cioè da tutti noi che navighiamo, leggiamo. Per esempio, quando si scrive tutto in maiuscolo significa che si sta urlando, faccio esatto. Un esempio molto semplice. E a volte magari uno appunto scrive tutto in maiuscolo perché non riesce a togliere quello che si chiama caps lock, per cui automaticamente scrive così, senza rendersi conto che in quel momento sta comunicando una una cosa diversa da quella che vuole, perché tutto verrà letto con un altro tono, diciamo. E secondo te è rispettata in rete l'etichetta di più che come ci comportiamo invece con gli altri? Ma io credo che no, rispecchi molto il nostro modo di comportarci con gli altri, perché c'è un modo, proprio un frasario, un modo di parlare che rispecchia chi sono e come mi voglio rapportare. Ci sono delle risposte garbate, gentili, così come c'è la risposta immediatamente prevaricante, così è la stessa cosa, io credo, è la stessa cosa. Senti, c'è qualcosa che ti dà particolarmente fastidio a tavola, che non dobbiamo assolutamente fare? Allora, principalmente anche qui la prevaricazione, cioè ognuno, come si diceva prima, deve avere modo di esprimersi, aspettare che l'altro si sia espresso come vuole, poi eventualmente fare il proprio commento, così come l'eccessivo rumore, ecco, a tavola ci vuole la tavola è veramente molto importante anche dal punto di vista simbolico, in quanto la tavola è condivisa da tutti, il cibo è la maggior condivisione come l'aria che respiriamo, il cibo è un simbolo veramente molto profondo, l'uomo per vivere ha bisogno di cibarsi e la tavola è un simbolo di tutto questo, per cui va veramente rispettata, sia in quanto, ma non in quanto etichetta, che la parola etichetta veramente dà quest'idea di appiccicare qualcosa sopra qualcos'altro, ma proprio nel senso, va rispettata nel senso di condivisione della vita. A tavola si condivide la vita perché ci si ciba e quindi è un rispetto sia per il cibo sia per chi lo condivide con noi, pertanto un'etichetta dove metto il coltello, dove metto la forchetta, quanto proprio di appartenere a questo genere umano che condivide questa cosa molto preziosa. Ecco, in questo senso secondo me va rispettata la tavola. Ecco, beh, questo sicuramente, però è anche vero che la posizione, tu hai citato le forchette, il coltello, però la posizione è appunto dei bicchieri, delle posate, eccetera, in realtà nasce anche da una praticità di chi deve servire a tavola, per esempio, o di chi deve mangiare, quindi i commensali, come si devono trovare le cose. Cioè, il fatto che il coltello abbia la lama verso il piatto nasce dal presupposto che evita di tagliarsi a chi mette la mano di fianco al piatto. Cioè, credo che tutto comunque nasca da qualcos'altro, da una praticità, non solo da un fatto di educazione, o mi sbaglio? Ah, certo. Poi proprio le regole dell'apparecchiare tavola, di servire in un certo modo. Sì, senz'altro praticità, senz'altro anche questo, però secondo me non è l'aspetto principale, diciamo, ecco, però è molto utile, molto, sì, ma questo sicuramente, per carità, e poi una tavola ben apparecchiata, la praticità, cioè è bella da vedere, già arrivando a tavola uno si predispone in un certo modo, questo senz'altro, e poi anche per esempio quando, perché sono delle circostanze, ecco, se io ho un pranzo formale, apparecchierò in un certo modo a casa mia con i miei familiari, certo, in un altro, sempre rispettando certamente anche proprio praticità, anche perché oggi il tempo è veramente limitato, per cui la praticità è essenziale oggi, veramente. Roberta, ti lascio con una domanda: cos'è la cosa che tu a tavola hai metti sempre? C'è una cosa che secondo te quando si parla una tavola non deve mancare mai? Dunque, senti, tu mi fai una domanda personale, sai cos'è la prima cosa che mi è venuta in mente? Sì, no, il tovagliolo. Io non posso mangiare il tovagliolo. No, ma è interessante, perché dice è una di quelle cose che deve assolutamente esserci. Secondo me sì, perché sbavature sul bicchiere, oppure c'è proprio questa bocca magari unta e così. Ecco, questo personalmente. No, ma è molto interessante. E adesso tu, siccome mi hai detto mi fai una domanda personale, mi è venuta in mente un'altra. Molti ascoltatori e ascoltatrici stanno scrivendo che è una cosa che non sopportano è la non risposta. Allora io, che chiedo a te, che hai scritto tanti libri sul bon ton, volevo chiederti la tua opinione sulle domande e le risposte. Allora, si dice che domandare è lecito e rispondere è cortesia. Io trovo che a volte domandare sia anche illecito, ma questa è una mia personale opinione. E rispondere che cos'è? Quindi lascio a te la palla, insomma, se puoi raccontarmi la tua opinione. Allora, sempre cioè, personalmente io non ho nessuna remora verso qualsiasi domanda. Dopo, naturalmente, spetterà a me con cortesia glissare con un sorriso o rispondere se voglio. Però non ho proprio, mi va bene, per me personalmente qualsiasi domanda va bene. Ecco, si può anche, è educato anche non rispondere a questo punto. Certamente, sì, certamente, certamente. È educato anche non rispondere, naturalmente non con un ghigno, con un muso tremendo, ma con un bel sorriso, dire senti, guarda questa domanda, io proprio non vedo il caso di rispondere, basta. E si lascia l'altro nel suo dubbio amletico. La semplicità è veramente alla base di tutto, cioè secondo me non vedo perché qualcuno debba limitarsi nel farmi una domanda. Certo, è possibile farla, però ecco, sappiate anche che rispondere non è doveroso, ecco, esatto, diciamo così, che senz'altro, è un giustissimo, è per quello dico, a volte le domande sarebbero da evitare, ma fa niente, si possono fare, però aspettatevi anche una non risposta, esatto, ci sta. E in questo caso viva il buonsenso, perché certamente io non vado a chiedere una cosa imbarazzante se non voglio farmi, non farmi rispondere. Ecco, dopo io posso fare la domanda che voglio, certamente devo essere pronta ad accettare la risposta. Esatto, non bisogna data. Pretenderla per forza, esatto, questo è chiaramente. Esatto. Roberta Bellinzaglio, ti ringrazio molto, ringrazio anche Roberta Mascheroni ovviamente. Il Galateo Tavolo è uno dei tanti libri sul Galateo che hanno scritto, editi tutti da De Vecchi. Buona domenica, grazie Roberta. A voi, grazie mille, ciao. Grazie. Lessia Naneado, ciao. Ciao, ciao a tutti. Buongiorno, allora tu hai scritto fra le tante cose anche il bonton per bambini e io volevo cominciare con te con questa domanda. Abbiamo parlato di tavola, no? Sì. Parliamo dei bambini a tavola. Io mi ricordo che se osavo portare i fumetti a tavola, a Topolino o qualunque altra cosa fosse, mia madre mi faceva volare il fumetto dall'altra parte e mi costringeva a stare a tavola. A tavola si sta a tavola, si legge da un'altra parte. Tu come la vedi? Oggi ci sono ovviamente le console portatili, per cui si portano quelle e si gioca con quelle, piuttosto che col telefonino. Io credo che dipende molto dai valori che i genitori vogliono dare al bambino. Sì. Che cosa è importante per loro? Il momento della tavola stesso è un momento in cui si parla, si sta insieme. E quindi buttare via il topolino oppure dire a me dà fastidio, cioè, piuttosto che rivolgersi al bambino con tu non devi, sì, che è il vecchio modo, parlare di quelli che sono i nostri valori. Per me è importante stare a tavola insieme e quindi chiedo di non portare il console come io non porto, che ne so, una cosa da scrivere o da leggere. Ecco, certo, quindi tu dici chiaramente sempre spiegare il perché no, questo un po' è la base di tutta l'educazione. Spiegare perché no a partire però dai nostri valori, non usando il tu ma usando l'io. Questo è interessante, tu è non importante. Devi fare ma per me lo è e quindi vorrei che lo fosse anche per te, questo è no, il non senso. Vorrei che lo no, fosse, neanche. No, non vorrei che lo fosse anche per te, quindi essendo io il genitore sì, e sono io che decido alcune regole, perché questa è la cosa di fondo, queste regole devono essere basate su quello che è importante per me. Così come noi decidiamo dove vivono i nostri bambini, in quale scuola vanno, che cosa mangiano, eccetera, eccetera. Come decidiamo anche come devono comportarsi. Decidiamo anche come devono comportarsi con me. Allora, per me questo è importante e quindi... Deve essere fatto. Magari per la nonna sì, sono importanti altre cose. Se noi vogliamo stare con la nonna, è importante sapere parlare il suo linguaggio. Quindi con la nonna certe cose non si fanno e con me magari si possono fare. Con i tuoi amici puoi fare quello che vuoi, basta che tu non vada a colpire, a far male a quell'altro. Quindi, come diceva Francesca Dragotto, considerare sempre il pubblico al quale ci si rivolge. Parliamo di bon ton oggi, c'è Nessia Laniado, autrice tra l'altro anche di bon ton per bambini, l'avevamo già avuta ospite tempo fa. Allora, continuiamo. I bambini hanno bisogno del bon ton anche tra loro, secondo te? Dipende cosa intendiamo per bon ton. Ecco, bene, partiamo da lì allora. Se bon ton è imparare a stare con l'altro rispettando sia se stessi che l'altro, allora sì. Da dove partiresti tu? Dal prima di tutto vedere quali sono i bisogni del bambino, che cosa sente in quel momento, che cosa ha bisogno di esprimere, dividere tra i suoi bisogni e come li esprime. se come li esprime va a colpire la sensibilità di qualcun altro, bisogna trovare un modo diverso. Mm. E come si fa a farglielo capire che in quel momento il suo modo di esprimersi sta ledendo la sensibilità degli altri? Stai parlando tra lui e gli altri bambini? Sì, esatto. No, io parlo della relazione fra bambini e bambini. La relazione tra bambini e bambini. Per esempio, non so, c'è la coda allo scivolo, sì, per dire. Ecco. Ok, allora c'è un bambino che gomita e passa avanti. Sì, esatto. Allora, succede. Noi come genitori possiamo fargli capire che se un altro gli fa la stessa cosa, a lui non piacerebbe. Certo, sì. E che quindi se lui vuole stare in relazione con gli altri, non deve fare questa cosa. E quindi si mette in coda. Ecco, quindi questo per è un esempio. Modo per... Certo. E, per esempio. Sì, e quando invece si tratta di una richiesta che invece lede gli adulti a questo punto, non gli altri bambini? Si tratta di appunto vedere il limite che noi possiamo sopportare nei confronti di questa cosa, perché tante volte gli diciamo non fare così, non fare così, 10 volte, lui continua a farlo. Lui non capisce cos'è il no. Sì. Allora, noi dobbiamo definire prima di tutto noi stessi quali sono per noi i limiti che noi non vogliamo che siano oltrepassati. E a quel punto il no deve essere un no, come per dire se il bambino gioca con i fiammiferi oppure vuole attraversare la strada che c'è un camion, noi gli diciamo no anche se piange. Lo prendiamo fisicamente e noi gli permettiamo di fare di farlo. Cosa. Senti, in una situazione di gruppo, per esempio al ristorante, no? Si hanno i bambini e i bambini parlano, chiacchierano, magari alzano la voce. E allora noi cerchiamo, insomma, di fare in modo che l'alzino un po' meno. Poi, dopo un po', lasciamo perdere perché non ci riusciamo e sappiamo che stanno dando un po' fastidio alle altre persone presenti, però la giustificazione è sempre ma sono bambini. Lì è sempre questione del perché non ci riusciamo. Perché se non per ci riusciamo? Per noi è veramente importante o no? Se il bambino al ristorante comincia a giocare con i coltelli, noi riusciamo benissimo a imporgli di non farlo. Sì. Se invece lui alza la voce, in qualche modo forse non è così importante per noi. Ah, ecco. Allora vorremmo che lui non l'alzasse, glielo chiediamo e in qualche modo diamo a lui la responsabilità di rispondere al nostro bisogno. Sì. Se invece per noi è così importante, gli possiamo dire le regole per stare al ristorante sono 1, 2, 3 per noi, quindi se tu vuoi stare con noi e fare e stare in una cosa da grandi, allora le regole per stare con i grandi sono queste. E vanno rispettate. Vanno rispettate. Se vuoi, possiamo le rispetti. Se non vuoi, non vieni al ristorante. Ecco, quindi poi... Cioè, bisogna sapere dare un limite a quelle che sono le nostre richieste. Certo, Nessa è stata molto chiara e spero anche utile per molti genitori, non è sempre facile infatti sapere cosa fare e come comportarsi con i propri figli e ti ringrazio, buona giornata per essere stata buona con giornata. Noi, grazie ancora, vi ricordo uno dei libri appunto di Nessa, è Il Bon Ton per Bambini, edito da Red Edizioni. C'è Simone Dalla Valle, ciao, pronto. Buongiorno, Simone. Buongiorno Stefano, buongiorno a tutti. Quanti cani hai in giro in questo momento? i miei 3 cani come al solito. Allora, Simone Dalla Valle forse l'avete già visto perché conduce anche una trasmissione che è Missione Cuccioli su The Kids, è istruttore cinofilo e ovviamente parliamo del bon ton dei cani. Adesso tu in questo caso hai a che fare con i cani, gli animali in generale bisognerebbe dire, però insomma i cani... il bon ton più che altro, più che dei cani, sarà dei proprietari, no? Assolutamente sì, ma in realtà stavo ascoltando l'intervista precedente, molto interessante e peraltro mi ci ritrovo molto, anche perché io prima di lavorare con i cani in realtà lavoravo con i ragazzi. Sì. E spesso ci si dimentica che anche noi abbiamo un cervello da animale, i principi che... poi servono per crescere ed educare un bambino con le dovute differenze. Sono gli stessi e non c'è mai bisogno di imporsi con la forza fisica, con le urla, con le minacce, come purtroppo ancora oggi qualcuno anche in televisione cerca di farci credere con i cani. Basta riuscire a comunicare nel modo giusto e, esattamente come diceva la persona prima di me, riuscire a comunicare quelle che sono le regole del gruppo questi cani lo vedono come un branco, noi lo chiamiamo come un gruppo, una famiglia, quel gruppo ha delle regole, all'interno di quelle regole, all'interno di quel gruppo vanno rispettate delle regole, così si stabilisce un'armonia. Quando c'è armonia all'interno del gruppo c'è anche nei confronti dell'ambiente che ci circonda, sia casa nostra, il parco o una località di vacanza dove ci possiamo recare, visto che siamo in estate. Simone, senti, quindi, io ho una teoria molto personale, probabilmente sì, completamente sbagliata, però te la voglio proporre, perché tu, conoscendo invece appunto i cani, mi puoi dar ragione, ho assolutamente torto marcio, ma sono curioso di portarla, che è questo. Io sono convinto che i cani piccoli, quelli di piccola taglia, siano molto più disturbatori e abbaino più frequentemente e facilmente rispetto a quelli di taglia grande. Io la vedo così, ma forse non lo so, se è vero. Guarda, o, stai sfondando una porta aperta, sia per ragioni personali, nel senso che molte persone, io come ho detto inizialmente, vivo con tre cani, sì, adesso ho la fortuna di vivere in campagna, uno spazio molto ampio, ma fino a 3 anni fa vivevo in uno di quei fantastici monolocali con cucina arredabile, arredata in centro a Milano, e mi è capitato, dopo un anno che abitavo in quel palazzo, faccio presente che il più piccolo dei miei cani pesa 25 kg, il più grande 45, quindi abbiamo capito più o meno di che cani parliamo, e mi è capitato di incontrare delle persone dopo un anno che abitavo in quel palazzo col cane e mi hanno chiesto se avevo preso il cane recentemente. Quindi questo per dire che l'educazione è la base di tutto, non la misura del cane. Purtroppo quello che succede con i cani piccoli, ecco, spiegami, è un po' esattamente quello che si diceva prima. Come si dice, sono bambine e glielo lascio fare, spesso e volentieri c'è un po' questo modo di fare nei confronti dei cani piccoli, che siccome sono piccoli li lasciamo abbaiare. Ecco, tu dici che è il padrone, quindi, che si relaziona in modo diverso, perché vedendo la stazza piccola permette delle cose che invece un cane di stazza grossa non permetteresti. Assolutamente. Io dico sempre quando mi arrivano dei clienti che hanno magari il classico chihuahua o pincher, sì, che arrivano al mio centro di addestramento magari dopo 5-6 anni che questo cane ha abbaiato a tutti e loro poi presi dall'esasperazione, io dico sempre: signori, se aveste avuto un San Bernardo di 50 kg al primo bao sareste venuti qui, perché chiaramente il bao di un San Bernardo fa scuotere la casa da cima a fondo, mentre quello di un pincher, insomma, è un più lavoro lungo ai fianchi. Guarda, insomma, è vero, scuote comunque il mio sistema nervoso, cioè preferisco l'abbaiare del San Bernardo, onestamente, perché conoscendo questo pi, scusami, però così, insomma, mi muove, diciamo così, l'acqua all'interno del corpo. E allora, Simone, pronto? Ecco, ci sei. Sì, ci sono. Avevi a che fare con i tuoi non tanto cuccioli. No, sono cresciuti loro. Senti, ho un cane ingestibile. In auto vuole stare a tutti i costi davanti con noi. Grazie, cosa devo fare? Chiedono, Classico discorso, se vuole stare davanti è perché qualcuno gli ha permesso di stare davanti. Ma scusa, ma non c'è una rete? Io sapevo che ci fossero delle regole, allora, il cane riesce. Io tengo tantissimo, anzi grazie per questa domanda, perché sì, uno, come hai detto tu prima, spesso e volentieri sono più da educare i proprietari che i cani quando mi trovo sul campo di lavoro. Questa è una delle situazioni più diffuse. Io voglio bene al mio cane, quindi lo tengo in braccio, lo tengo sul sedile. Se vogliamo bene davvero al nostro cane, dobbiamo salvaguardare la sua salute, perché il cane non è in grado di immaginare che la macchina possa frenare, avere magari una brusca sterzata o cosa, e quindi dobbiamo essere noi a prevenire il fatto che lui si faccia male, e per farlo ci sono essenzialmente due soluzioni. La prima è quella che ricordavi tu, quindi applicare una rete, un separatore rigido, mi raccomando, non morbido, al bagagliaio della macchina. Chiaramente questo se il bagagliaio è abbastanza ampio, perché attenzione, ogni tanto vedo dei cani poverini messi in degli spazi angusti dove probabilmente neanche una camicia riesce. Dietro la Smart sta benissimo il cane, ha tutto il suo spazio. La Smart è una di quelle macchine, non voglio citarne altre per non fare poi dei torti magari a qualche brand automobilistico, però ci siamo capiti. L'altra soluzione, che io non disprezzo, però secondo me è sempre un po' rischiosa, è quella di applicare al cane una pettorina di tipo svedese, che peraltro sono anche quelle che io utilizzo normalmente nella vita di tutti i giorni. Sono delle pettorine che hanno l'aggancio al centro della schiena, per capirci, quindi non all'altezza del collo, il cane non si può strozzare, non all'altezza delle scapole, quindi il cane non se la può sfilare, ma al centro della schiena. Esistono poi degli opportuni guinzagli che hanno da un lato un moschettone, dall'altro il maschio della cintura di sicurezza, quindi è possibile agganciare in totale sicurezza il cane e lasciarlo sul sedile posteriore. Questo perché la legge ci dice che il cane deve essere impossibilitato a disturbare il guidatore della macchina, ecco. Certo. Per cui tenere il cane in braccio, oltre che essere, diciamo, un atteggiamento fuori legge, sbagliato, è anche molto pericoloso, quindi invito tutti quelli che lo tengono per affetto a rendersi conto che... Quindi dobbiamo obbligarlo insomma, a non venire davanti, deve essere obbligato, sì, chiuso, sì. Stretto, insomma, abbiamo capito come. Senti, un'altra domanda arriva da Paola, dice: un meticcio di 4 mesi che morde il tutto con denti che sembrano aghi, beh, ovvio, è piccolo. Passerà, cioè la domanda è: passerà a questo momento? Allora, anche questa è una buona domanda, soprattutto quella finale, il passerà, nel senso che spesso, questa è un po' la tradizione che viene dalla vecchia scuola, per cui poi si è obbligati a ricorrere alle maniere forti, cosa che io non faccio, e che il cane fino a un anno è cucciolo e tutto quello che fa in questo anno di vita, insomma, in qualche modo gli è permesso, un po' come si diceva prima ai bambini, perché poi improvvisamente riceverà questa illuminazione sulla via di Damasco e diventerà un bravo cane. Questa è una grande bugia che sarebbe ora di sfatare. In Inghilterra da decenni, non da anni ma decenni, esistono le puppy class, cioè dei corsi appositi per cucci dai 2 ai 4 mesi, il cui obiettivo non è mai l'obbedienza fino a se stessa, ma fornire al proprietario tutto quell'elenco di informazioni che deve avere chiunque decide di vivere con un cane, e dall'altra parte cominciare con proprio dei prodromi di educazione da insegnare al cane, quindi i primi esercizietti, tra cui quelli utili a insegnare al cane a redirigere questa voglia di mordere, che è dovuta al fatto che il cane è un cucciolo, e quindi, come noi esploravamo con le mani e anche noi con la bocca, i cani purtroppo hanno solo la bocca, per fortuna, e quindi esplorano. Non c'è da dimenticare che fino ai 6 mesi avviene la dentizione, quindi i cani provano comunque un fastidio, una voglia di mordere, così come i bambini. Per cui la cosa migliore da fare è quella di fornire al cane degli oggetti in gomma dura, degli snack di pelle di bufalo, su cui il cane può in qualche modo concentrare questa, infatti, sua, guarda, di sono divertentissimi. Io, quando mi capita di andare in quei negozi grandi che vendono anche quelle cose, io non ho cani, però ne compro una valanga per i miei amici che hanno i cani, perché mi piacciono proprio gli oggetti, perché ormai fanno di tutto, per cui mi diverte. Ecco, se posso dare un suggerimento, perché sì, ecco, questa è un'altra cosa importante: evitare tassativamente quelli che vengono definiti gli squeezy toy, cioè quei giochi che quando vengono compressi dalla mano o dalla bocca del cane mettono quella sorta di squittio. Stai sereno, quello è evitato, perché io già appena fai pi mi innervosisco, figurati. Esatto, quindi è evitato per la nostra salvaguardia nervosa, ma anche per il cane, perché vorrei ricordare che il cane non si diverte, per il cane purtroppo quel suono è il suono che fa la preda quando viene morsa. Nessuna preda resiste a 10, 15, 20 morsi di un cane, e quindi il fatto che lui stringa questo gioco, che emetta questo suono però un po' particolare, fa sì che il cane passi da una fase di gioco a una fase di ipereccitazione. Questo lo invita a mordere molto di più. Questo è molto interessante, perché è molto interessante quello che stai dicendo, Simone, perché questo sfugge completamente a tutti. Sì, purtroppo sì, molte persone sono convinte che il cane si diverte, in realtà chi è in grado di osservare il comportamento dei cani si rende conto che il cane ha smesso la modalità così ludica per vestire i panni del predatore che è dentro ogni cane, anche il più tenero chihuahua da famiglia ha dentro di lui un predatore, e quel suono risveglia proprio quelle caratteristiche. Simone, avrei un sacco di altre domande da farti proprio del rapporto cane e padrone verso le altre persone, magari che appunto non hanno animali domestici, eccetera. Però non ho tempo, se no mi salta l'altro ospite che invece tengo a fare, perché ha a che fare proprio col suono di cui abbiamo parlato adesso. Okay. Sarai il nostro ospite in una prossima puntata? Tutte le volte che vuoi, volentierissimo. Grazie. Posso permettermi di suggerire solo il mio sito? No, stavo dicendo io, simonedallavalle.com. Eccolo qua. Dove ci sono stati inseriti da poco tutti i consigli per andare in vacanza e rispettare il cane, noi, ma soprattutto anche le altre persone che sono in vacanza e il cane non ce l'hanno. Grazie per quello che fai, Simone, ciao, buona giornata. Ciao. Buona giornata a voi, grazie. Ciao. Nicola Procaccio. Buongiorno. Ciao Nicola, abbiamo poco tempo purtroppo, ma cerchiamo di farlo. Tu sei responsabile delle relazioni esterne di Intel Italia, avete fatto una ricerca molto interessante, credo in tutta Europa, no, in tutta Europa o tutto il mondo, scusami? È stata fatta a livello mondiale, abbiamo investigato su un campione di 1000 italiani e più di 12.000 europei. Per capire come siamo maleducati col cellulare, io lo so, è vero, hai ragione Nicola. È così. Assolutamente, assolutamente, ma penso che tutti siamo nella stessa situazione. Peraltro tengo a precisare che molti ascoltatori si stupiranno nel sentire che un'azienda che produce il processore, il cuore, abbia deciso di investigare in questo senso. Però non ci dobbiamo stupire più di tanto, perché noi non siamo solo, e io per primo, ingegneri e tecnocrati, ma noi abbiamo addirittura un gruppo di antropologi che vuole studiare il comportamento degli individui per capire anche come adeguare la loro vita di tutti i giorni a un utilizzo consapevole delle tecnologie. Ecco come è nata l'idea di fare questa ricerca, in modo particolare toccando l'Italia, perché l'Italia, lo sanno tutti, è un paese dove i dispositivi mobili proliferano. Pensate che un italiano su due ha almeno un dispositivo mobile, uno su cinque ne ha tre, con una preferenza per il telefono cellulare e per il computer. Ma come li usiamo questi dispositivi? Ecco, una cosa che dà veramente fastidio, infatti io la tolgo sempre e chiedo anche ai miei amici di farlo, è il ti quando premi la tastiera per scrivere tipo un SMS. E infatti questo è stato proprio considerato tra i rumori più molesti, ma in generale pensa che questa ricerca ha dimostrato che se anche i dispositivi mobili comunque stanno aumentando a dismisura in Italia, comunque la nostra società e la nostra cultura non è ancora pronta per metabolizzare queste tecnologie nel nostro vivere civile. Infatti molti hanno proprio reclamato a gran voce l'esigenza di istituire una sorta di galateo, quasi vorrebbero un monsignor della casa in versione digitale a indicarci, a insegnarci qual è il comportamento da tenere. Sai che, Nicola, io tanti anni fa, credo una quindicina, avevo scritto il saper vivere della tecnologia. Non è mai stato pubblicato, però è ancora lì. Adesso a qualche editore magari darò ancora le bozze, magari a riviste, dopo 15 anni un po' di cose sono cambiate, però forse ero avanti coi tempi, perché in effetti sapevo che la tecnologia avrebbe veramente invaso la vita quotidiana. Poi dove non siamo molto educati, Nicola? Ma se tu pensi guardando quelli che sono stati considerati i comportamenti più scorretti, sicuramente nella classifica finale abbiamo scrivere e leggere messaggi mentre siamo al volante, questo ci rende molto cittadini molto coscienziosi, seguire dal parlare in alta voce ad alta voce in pubblico, e pensate a quante persone vediamo con gli auricolari Bluetooth fare meeting o disturbarci anche solo nelle caffetterie degli uffici, oltre appunto a parlare, e questo penso che sia veramente ciò che più indispone nell'interazione quotidiana, a parlare con qualcuno che invece di guardarti e di seguirti scrive e legge messaggi sul proprio cellulare. Che è molto fastidioso, è come quando sei, non so, a cena con qualcuno e guardi continuamente dalle altre parti, no? Non si assolutamente, fa, assolutamente d'accordo, ma devo dire che da italiano, comunque, andando a guardare e a enfatizzare quelli che sono i risultati di questa ricerca che più mi hanno colpito, è emblematico proprio per farvi capire come l'utilizzo delle tecnologie mobili, dei dispositivi mobili, venga veramente equiparato a tanti altri comportamenti quotidiani. Pensate che un uso improprio di un telefonino è stato considerato al terzo posto in quelle che sono nella lista dei 10 comportamenti scorretti, seguito soltanto dalle intramontabili del naso e dal mortigliarsi le unghie mentre si parla. Ecco, quindi sappiate che utilizzare male il cellulare in modo così poco educato vale come mettersi le dita nel naso, anzi vale di più che mettersi le dita nel naso. Ho capito. Ecco. E per collegarmi anche a quello che dicevate prima, sì, su quanto la cucina, il mangiar bene, faccia parte della nostra cultura da secoli, mi è con piacere che ho notato che il peggior posto, secondo il 69% degli italiani, il peggior posto per usare dispositivi mobili, siano il PC che il telefono cellulare, è la tavola, che ovviamente per noi italiani è un momento sacro e assolutamente da rispettare. Ecco, allora, a parte qualcuno dice forse non l'hanno pubblicato perché come libro fa schifo, non lo so, invece forse oggi avrebbe più senso, magari non aveva senso 15 anni fa, ne hanno pubblicati altri comunque, questo rispondo a quel messaggio anonimo. Poi addirittura scrivono quando c'è la messa è odioso sentire i cellulari che squillano, addirittura, beh, questo vale anche a teatro, al cinema, eccetera, anche se c'è qualcuno che mette in silenzioso e risponde lo stesso. Come si comporta il resto del mondo, Nicola? Sicuramente questa è una caratteristica soprattutto dei paesi europei, con una prevalenza ovviamente di attenzione per questo tipo di problematiche, per questi tipi di momenti. Sicuramente per il resto del mondo c'è un atteggiamento più libertino, più capace di lasciare agli altri la possibilità comunque di utilizzare le device anche in momenti che per noi sono totalmente sacri. Sicuramente in Italia si accendono sempre di più i cellulari e si accendono sempre troppo più presto. Pensate che comunque per oltre il 50% degli italiani è importantissimo poter controllare le mail e il proprio social network ancor prima di far colazione e ancor prima di andare in ufficio. Questo quindi è un segno emblematico di come ci sia confusione, disorientamento, ma inevitabile, ma al tempo stesso io direi comprensibile, perché un adeguamento a questo trend in continua evoluzione, a questo proliferare di tecnologie, richiede un processo di normalizzazione sociale che non può avvenire in 2 o 3 anni, ma che richiede inevitabilmente di passare attraverso le future generazioni, per cui io personalmente ritengo che mio figlio e i miei nipoti, rispetto a noi, saranno non solo utenti di dispositivi tecnologici più più educati. Ecco Nicola, l'ultima domanda: se qualche ascoltatore volesse leggere questa ricerca, c'è un modo per trovarla, ad esempio attraverso la rete? Assolutamente, basta collegarsi al sito di Intelitalia e soprattutto al link alla sala stampa di Intelitalia, dove è possibile scaricarsi non soltanto il comunicato stampa relativo alla ricerca, ma anche proprio i grafici che riportano le risposte per ognuna dei paesi europei e mondiali investigati in relazione a ognuna delle domande effettuate. Ecco, sappiate che solo un italiano su 5 si comporta bene quando è col cellulare. Grazie Nicola Procaccio. Grazie domenica. A voi e buona estate a tutti. Ciao, grazie. C'è un momento dedicato anche a un mondo particolare che di solito si ascoltava il sabato durante 2024, ma che per questi due mesi, luglio e agosto, è inserito invece nel riposo del guerriero. Video game. Video game. Parliamo di videogiochi, infatti c'è Andrea Crippa di GameStop. Ciao Andrea, buona domenica. Buongiorno Stefano e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, cominceremo a giocare. Abbiamo parlato la settimana scorsa di quello che saranno i campionati di beach volley piuttosto che di varie gare sulle spiagge. Ci saranno anche quelle dedicate al mondo dei videogiochi. Assolutamente sì, perché dopo lo straordinario successo che abbiamo ottenuto nell'edizione del 2010, torna finalmente il Game Show by GameStop, che è un evento interamente dedicato al mondo videoludico e capace di riunire sia gli appassionati di videogame che i videogiocatori, diciamo, un po' di tutte le età. Ecco, anche quelli più casuali, anche perché d'estate, sai, la gente vuole divertirsi, non è che uno debba essere per forza quello che, diciamo, in gergo si dice uno smanettone, può essere tranquillamente uno che dice ma sì, mi faccio una partita. I nostri casual gamer, noi esatto, li chiamiamo, diciamo. Sì. Al contrario della prima edizione che si è tenuta lo scorso novembre in un solo weekend presso il forum di Assago, dove abbiamo avuto circa 27.000 visitatori, quest'anno GameStop, diciamo, che sceglie di rispondere alle richieste dei nostri player dislocati su tutta Italia per portarli direttamente il mondo dei videogame da loro. Il principale problema è che non ci sono eventi, grandi eventi di videogame nel territorio, soprattutto sud Italia, e la maggior parte dei nostri appassionati si devono fare dei viaggi, posso dire, veramente esagerati per spostarsi fino a Roma o a Milano per assistere a questi eventi. E voi invece sarete dappertutto quest'estate, in tante spiagge. Siamo dappertutto, il tour partirà il 16 luglio all'Idroscalo di Milano, che non è una spiaggia, diciamo, ma che per i milanesi è comunque... Esatto, ufficialmente lo è, per poi scendere lungo la riviera Adriatica, poi raggiungeremo la Puglia, da qui Calabria, Campania, Lazio... E il tutto si concluderà il 25 agosto in Versilia. Ecco, quindi non andrete soltanto nelle isole, Sardegna e Sicilia non ci saranno quest'anno. Esattamente, Sardegna e Sicilia per quest'anno, diciamo, che sono rimaste fuori dall'evento. Ecco, è tutto gratuito, giusto? Tutto, immagino, assolutissimamente sì. Gratuito, ci saranno due giorni di attività che saranno dalle 10 alle 20 e in questi due giorni ci sarà un DJ set, ci saranno tantissimi tornei. Ci saranno tantissime aree, ci sarà un'area demo di ben 200 metri quadri dove potrete provare tutte le novità del mondo videoludico sulle principali piattaforme che sono Xbox 360 con Kinect, PlayStation 3 col Move e Nintendo 3DS, e oltre a quello avremo addirittura anche per tutti gli appassionati di giochi su PC, che comunque sono ancora tanti, abbiamo con Asus, che è uno dei nostri partner principali dell'iniziativa, diciamo che metterà a disposizione le più avanzate piattaforme notebook e desktop in ambito gaming all'interno di un'area PC dedicata, dove sarà possibile provare per esempio Crysis 2 e Dirt 3, che sono due dei titoli che hanno venduto, ecco, di più. Sì, ne avevamo parlato anche nella rubrica di videogiochi, ne riparleremo sicuramente anche quest'estate, quindi un bel momento per poter videogiocare gratuitamente sulle spiagge di tutta Italia. Il sito per andare a vedere le date e le postazioni, giusto, Andrea? Volevo solo fare due cenni prima, sì, di dare il sito e tutto. Partner dell'iniziativa saranno anche Coca-Cola Zero con il suo brand e un suo gioco da cui i partecipanti potranno addirittura vincere un Kinect. Ci saranno anche per i più piccini Jedi Scarte, che porterà le sue carte di Pokémon, per cui potranno giocare anche i più piccini all'interno. Ne abbiamo parlato quest'area la settimana scorsa, ma pare che siano più i papà che giocano con le carte dei Pokémon ormai. Ma speriamo anche quello, così almeno più gente c'è meglio è. E poi ci sarà anche Cili TV, che è la TV di Fastweb online in streaming, che avrà una particolare promozione per i nuovi iscritti. Il sito? Il sito è gameshowgamestop.com, oppure potete visitare anche le pagine Facebook che sono GameStop, Game Show by GameStop, e la pagina ufficiale di Facebook di GameStop Italia. Grazie Andrea, ciao, buona giornata. Ciao, buona giornata a tutti. Ciao, ciao, ciao, e siamo arrivati al momento dove forse eravamo quasi partiti da lì. Fior Fiore Coop, metti a fuoco la bontà. Vi presenta Il Gastronauta. Siamo partiti dalla tavola e torniamo a tavola. Ciao Davide, buongiorno. Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti. Qual è l'atteggiamento che ti dà più fastidio quando le persone sono a tavola al ristorante? Ma al ristorante quando diventano cafone, magari che c'è un minimo di ritardo di un cameriere, cominciano ad alzare la voce e a farsi sentire, oppure molti che quando magari assaggiano il brodo si sente un rumore veramente assordante che sembra non so che cosa, di essere non so dove. Senti, ma c'è, poi, c'è un modo educato di chiamare il cameriere, non è sempre facile. C'è un sì, modo, però, per farlo. Puoi anche non alzare la voce. Da, questo molti sicuramente. Che per farsi sentire, alzano la voce quasi irretiti. E trattano, beh, molte volte ci sono anche dei camerieri che sarebbero da prendere a calci in culo, per carità, nel senso che non è che, cioè, io voglio difendere a spada tratta i camerieri a difesa dei clienti, ci sono dei clienti che sono sgarbati e ci sono dei camerieri veramente che fanno il loro mestiere controvoglia e diventano maleducati a loro volta. Oppure niente, mi dà anche abbastanza noia quando ad alta voce magari commentano che ne so, il piatto, commentano un vino, cioè ad alta voce forse per farsi sentire ed attirare l'attenzione. E poi mi irrita anche molte signore che arrivano profumate, non so come, che io chiamo profumone, che inondano la tavola per cui non senti più i cibi. No, ti disturba, certo, perché tu hai un anche altro questo, odore. Certo. Cioè, va bene il profumo, però insomma con un minimo di attenzione, ma non per il mangiare, ma sempre. Quindi se hai vicino una signora di quel genere, arrivederci, insomma. Quindi questo è un altro comportamento che secondo me dovrebbe essere tutelato. Quindi, io ad esempio non sono per niente, come posso dire, ostile a chi mangia certe cose con le mani, anzi io credo che certi piatti e certi bocconi devono essere gustati con le mani. Non mi vergogno a dirlo che secondo me prodotti come il culatello ed altri salumi, il massimo è di mangiarle con le mani, magari col coltello vengono rovinati, magari per altri è una forma di maleducazione. Ci sono anche dei codici personali che sicuramente non sono condivisi dagli altri. Beh, questo, io credo che veramente con le mani giustifica anche Roberta Belinza, che diceva che una cosa che non deve assolutamente mancare a tavola secondo lei è il tovagliolo, ed è vero, perché sembra chi mangia con le mani poi ha un modo per pulirsele, che magari è una cosa che uno a casa mette in carta o magari se lo dimentica, può succedere. Si parla di buon tono di galateo, capisce sì. Poco di cibo, nel senso che mette tutto sullo stesso piano e invece ci sono cibi e cibi, e cibi che vanno gustati in maniera completamente diversa. Ad no. Esempio la scarpetta, secondo me, non quella di Cenerentola. No, certo, va fatta assolutamente, ma certo è anche un modo per gradire il sugo e il resto del piatto. Ma ecco, va fatta, però magari non puoi sentire tirar su come succede da qualche altra parte vicino. Bisogna mangiarlo un po' con delicatezza, però la scarpetta è assoluta. Ci sono certe cose, ma devo dire una cosa, io oggi ho scritto un articolo su un ristorante che è Villa Crespi, dove ho mangiato un piatto davvero straordinario di linguine servite con un sugo di pane di segala, sì. Che era liquido. Per fortuna ero in un punto, non ero né in cucina né in sala e nessuno mi ha visto e io me lo sono bevuto, quindi ecco. Possono succedere anche queste cose, non in pubblico, ero sicuro che non c'era nessuno, però vanno gustate in questa maniera, certe cose è inutile fare tanti bon tono. No, ma io credo che ci stia assolutamente, perché poi il fatto è come ci si comporta verso gli altri, per esempio rumoreggiare con la bocca, ovviamente quello può essere fastidioso verso gli altri. Questo capita spesso, Davide, capita spesso. Quando sì. Si serve il vino bianco fresco, il secchiello è d'obbligo? No, cioè se tu lo porti già fresco a una certa temperatura non è d'obbligo. Ad esempio i vini cosiddetti naturali, sì. Secondo me non vanno messi nel secchiello, vanno portati freschi di cantina. Mentre altri, il problema è che quando tu lasci la bottiglia per magari minuti, non versi il vino e l'hai portata fresca e lo devi mettere il secchiello, perché poi, cioè, con queste temperature di questi giorni, sicuramente il vino immediatamente si riscalda, quindi molti vini non vanno serviti a temperatura ambiente come è scritto dietro alla controetichetta dei vini, perché temperatura ambiente molte volte sono 20-22 gradi, certo. E quindi secondo me siamo in eccesso. Non è d'obbligo sempre, però sicuramente qualche volta serve, specialmente in questo periodo, perché non è che bevi una bottiglia subito. Beh, se sei a un tavolo da 8 persone, probabilmente versi 8 bicchieri. È allora finita una bottiglia. Certo. È finita una bottiglia, sì. Ma se sei in due, cioè sicuramente il secchiello ci vuole. Solo per certi vini, non per tutti i vini bianchi, attenzione, qui non è che si può generalizzare. Come dicevo, sono certi vini, quelli naturali, che hanno subito macerazione per lunghissimo tempo, sicuramente non c'è bisogno del secchiello di ghiaccio. Invece ti dirò una cosa contraria, che molte volte c'è qualche rosso, diciamo, quasi privo di tannino, con pochissimo tannino, che secondo me vanno bevuti freschi. Io credo che ad esempio un lambrusco molte volte, cioè, non lo puoi dare a temperatura ambiente di 20 gradi il lambrusco, diciamo un qualche minuto, ma non tanto, nel secchiello forse va bene, poi bisogna ricordarsi di toglierlo dal secchiello. Ecco, il secchiello secondo me serve, però va usato anche dal cliente con attenzione, di non lasciarlo lì per 10 minuti, perché ovviamente la temperatura si abbassa e non senti più il gusto del vino. Certo, diventa troppo freddo e quindi alla fine diventa, non si gusta freddo, più. Certo. Però abbiate coraggio di chiederlo anche per un lambrusco, magari qualcuno appunto si vergogna e invece fatelo. Ecco. Ma ti dirò che io molte volte l'ho chiesto anche per altri rossi, perché erano molto caldi, e ho visto lo sguardo trucido del sommelier o di chi serviva il vino, che pensava, ma guarda sto cafone, ma dove ha imparato a ordinare il vino? Eppure secondo me bisogna fregarsi. E tu hai detto, l'ho ascoltato dal gastronauta, gliel'hai detto? Sì, no, l'ho detto, ma secondo me bisogna fregarsene. Io credo che, lo dico sempre, il punto G del gastronauta è trovare il proprio piacere, e quindi servire un vino fresco, se uno gli va, anche nel secchiello. E se uno piace così, è inutile, perché uno deve star male per seguire certe etichette, che siano il Galateo, il Bonton o i giornalisti tipo il sottoscritto. No, deve andare per la sua strada, faccia quello che vuole. Grazie Davide, buona domenica, ciao. A presto. Buona ciao. Giornata davvero, tra pochissimo giochiamo un mistero in 24 minuti. Beh, certo, dovete risolvere il mistero per prendervi questi soldi. La risposta può essere una notizia della settimana, oppure un personaggio, oppure qualcosa di particolarmente conosciuto. Dovete arrivare alla soluzione attraverso gli indizi musicali che vi proporrò. Però più indizi ascolterete, più il premio si abbasserà. Il numero verde per prenotarvi 800 24 00 24, e partiamo subito con il primo indizio. No, stanotte amore non ho più pensato a te. Ho aperto gli occhi per guardare intorno a me, e intorno a me girava il mondo come sempre. Gira il mondo, gira nello spazio senza fine, con gli amori appena nati, con gli amori già finiti, con la gioia e col dolore della gente come me. Un mondo, soltanto adesso io ti guardo, nel tuo silenzio io mi perdo, e sono niente accanto a te. La notte insegue sempre il giorno, ed il giorno verrà. Oh. Eccolo qua, questo è il primo indizio che abbiamo fatto ascoltare. Ci sono 1.000 euro da spendere su libreriarizzoli.it. Carlo, ciao, buona domenica. Ciao, buona domenica. Allora Carlo, intanto, già che ci sei, E una delle prossime puntate del Riposo del Guerriero sarà dedicata ai quiz, ai giochi. Ne abbiamo fatta una, ma ne facciamo una estiva, perché c'è un'iniziativa che sta per uscire con Il Sole 24 Ore. Le uscite saranno il sabato e il martedì, con soltanto 10 centesimi in più rispetto al giornale. Si pagherà quindi 1,60 anziché 1,50, e quindi si porterà a casa giornale e libro. Sono 25 uscite, tutte contenenti dei quiz. Sono 200 domande per ogni uscita, e su vari argomenti. Avremo il cinema, la cultura generale, lo sport, ma avremo anche il 17 agosto il volume sul Galateo. Allora, prima di tutto io ti chiedo una cosa. Se ti chiedono di indossare cravatta nera quando ricevi un invito, forse non ti sarà mai capitato, cosa devi indossare secondo te? Guarda, non ho mai indossato cravatta in vita mia, sono sincero. Bravo. Vabbè, niente, però tu vai con la cravatta nera, poi vedi, se ti buttano fuori vuol dire che c'è qualcosa di sbagliato. Allora, detto questo, ma era così tanto per chiacchierare. Carlo, veniamo al mistero invece. Che cosa vuoi fare? Abbiamo 1000 euro qua sul tavolo. Che ti stanno aspettando? Un altro inizio, perché il mondo è abbastanza grande. Vero? Sì. Però non così tanto come la risposta di oggi. Io a questo punto scendo a 500 euro. Successi più, insomma, straordinari dei Pooh. Tra l'altro le voci sono veramente giovanissime, per cui non so quanti anni siano passati, ma molti. Allora, Carlo, questa l'avrai riconosciuta sta canzone, no? Sì, Pensiero dei Pooh. Allora, abbiamo due indizi molto precisi per 500 euro. Provo a buttarmi con Jim Morrison. Perché? Perché Jimmy Fontana, Jim Morrison, un personaggio della settimana, visto che la settimana scorsa era il quarantennale della morte, pensiero a lui, ovviamente. Grazie, ciao. Grazie a voi, ciao. Ciao Carlo, c'è Massimiliano da Ascoli Piceno. Ciao Massimiliano. Ciao. Ciao. Allora, tu vuoi sentire un altro indizio? No, o ti bastano questi due indizi? Sì, io vorrei dare la risposta. Allora, sentiamo i due indizi che abbiamo scoperto fino a questo momento. Va bene. Gira il mondo, gira nello spazio senza fine. Non restare chiuso qui, pensiero. Vai Massimiliano. Allora, per me potrebbe essere l'ultimo volo dello shuttle nello spazio. Poi andremo su Marte, così ha detto Obama. Grazie Massimiliano, buona giornata, ciao. La risposta potrebbe essere anche giusta, o quella di Massimiliano o quella di Carlo, ma lo scopriremo solo allo scoccare del 24esimo minuto. Anzi, Enzo, da Reggio Emilia, ciao Enzo. Ciao. E te la cantavi tutta la canzone prima, ti abbiamo sentito. Eh beh, cosa vuoi? Vuoi riprovarci? No, no, no, il pubblico no, che la gente sente che non si sta bene. No, che cambia. Senti Enzo, ho due domande prima per te. Tu useresti lo stuzzicadenti a tavola? Al ristorante? Ma io conosco uno che usava il cacciavite. Vabbè, non lo vogliamo conoscere. Senti, se dovessi ricevere un invito con scritto cravatta nera, tu come ti vestiresti per questo? Devo trovare qualcuno che me la presti. Vabbè, ma quindi con la cravatta nera tu ti rifermi a quello, va bene, ok. Allora, hai un po' da studiare per il bon ton, Enzo, vediamo. Sto scherzando, vuoi dare una risposta o vuoi sentire un terzo indizio? Ce l'ho, però chiedo il terzo indizio. Va bene, allora scendiamo a 300 euro. Canta anche questa. Forse non sarà una canzone a cambiare le regole del gioco, ma voglio viverla così questa avventura, senza frontiere, con il cuore in gola. Il mondo in una giostra di colori, e il vento accarezza le bandiere, arriva un brivido e ti trascina via, e sciogli in un abbraccio la follia. Notti magiche, inseguendo un gol, sotto il cielo di un'estate italiana, e negli occhi tuoi voglia di vincere, un'estate, un'avventura in più. Mancano 5 minuti alla soluzione del mistero. 5 minuti mancano, allora, questo era Notti Magiche, Italia 90. Cosa vuoi fare? La semifinale ai rigori contro l'Argentina. Mi provo a dire il fatto che è stato chiuso News of the World, quel giornale. Sì, oggi l'ultima edizione. Sì, quel giornale lì di Pettegolezzi che intercettava illegalmente e pubblicava. C'è stato un crollo delle pubblicità e gli investimenti sul giornale, quindi è stato chiuso. Oggi ultimo numero, tra l'altro con tiratura doppia. Grazie Enzo, buona domenica. Ciao. Grazie anche a te, ciao. La risposta agli stuzzicadenti mi fa molto ridere, arriva da Daniele che scrive: a tavola non si mettono proprio gli stuzzicadenti, così abbiamo risolto il problema. Carlo da Pavia, buongiorno. Buongiorno. Allora Carlo, intanto se tu ricevessi un invito con scritto cravatta nera, come andresti vestito? Con la cravatta nera come me, Sì, accetterei senza capire però il motivo. Però è sbagliato, non è così. Non lo sapevo neanche io, l'ho scoperto adesso. Vabbè, dopo vi dico la risposta. Allora Carlo, cosa vuoi fare? Non ho sentito, perché è caduta la linea, la prima risposta. La prima risposta era Jim Morrison. Ok, no, allora vorrei provare a dare la risposta. Sì. Io penso, poteva far richiamare lo spazio e quindi il problema dei rifiuti spaziali che rischiavano di investire la stazione negli astronauti. Certo, grazie Carlo, buona giornata. Grazie. Ciao, ciao, per te potrebbero essere 300 euro. Roberto della provincia di Modena. Sì, pronto. Ciao Roberto, eccoci. Ciao. Allora. Niente, volevo fare? Dire anch'io quello del giornale, allora dirò Rupert Murdoch. Così, senza neanche un indizio, dici io voglio stare su quella strada. Grazie Roberto. Niente, ciao, grazie. Ciao, vi ricordo il numero per partecipare, 800 24 00 24, Alessandro. Ciao, buongiorno. Ciao Alessandro, allora abbiamo... Allora, io volevo provare a dare la risposta. Aspetta, allora, sentiamo i tre indizi, giusto? Sì, che abbiamo scoperto fino adesso. Gira il mondo, gira nello spazio senza fine. Non restare chiuso qui, per sera. Notti magiche, inseguendo ancora. Eccoci, allora, questi tre indizi, Alessandro, la tua risposta. La mia risposta è l'ultimo volo della navicella Shuttle. L'hanno già data. Ah, forse quando ho abbassato la radio, in effetti avevo pensato sia a quella sin dall'inizio. Allora, diciamo, ma non è giusta, te lo dico subito, è sbagliato, non è la risposta giusta, quindi... Ok, allora la liberazione di Strauss-Kahn. Ciao, grazie, ho ridotto tutta la vicenda ovviamente. Ciao Alessandro, grazie, ciao. Roberto dalla provincia di Roma è andato giù la linea, 800 24 00 24. Intanto vi do la risposta per quanto riguarda il famoso invito della cravatta nera. Se doveste mai ricevere un invito con scritto cravatta nera, dovete assolutamente indossare lo smoking, e meglio a petto, doppio petto, con reverse in raso, quindi quello proprio un po' elegante. E credo che però siamo anche agli sgoccioli, lo vedo qui, abbiamo 20 secondi, quindi non so se riusciamo. Okay, Mary Ellen da Ferrara, ciao Mary Ellen, buongiorno. Salve. Ciao. Salve. Mary Ellen, la tua risposta, non c'è tempo per un altro indizio, eccolo qua, lo sapevo. Provaci Mary Ellen, dammi la risposta giusta, è una notizia. Sì, vabbè, dato che avevo pensato quello dello shuttle, però già è stata data, non lo so, un satellite che è andato a vedere i meteoriti intorno al sole, ho sentito questa notizia, qualcosa di simile. Rimani tanto nello spazio, dare. Quindi? Sì. No, mi dispiace Mary Ellen, ciao, buona domenica. Bene, buona ciao, domenica, grazie, va. Grazie, grazie, mi dispiace, la risposta era la notte della rete che c'è stata a Roma contro la censura della rete, pensiero, perché si sono uniti molti personaggi del pensiero da tutti i punti di vista, e poi il mondo, perché parliamo proprio del mondo della rete, le notti magiche, perché era la notte della rete. Vi avrebbe sicuramente gli il quarto indizio, che parlava di vita digitale, ma non l'avete chiesto e quindi non l'avete sentito. Niente da fare, mi dispiace, è tutto per questa puntata del Riposo del Guerriero. Grazie davvero come sempre anche alla redazione, a Giorgio De Luca, all'assistenza di Laura Vanossi e alla regia di Filippo Aureggi. Grazie a voi, ci sentiamo domenica prossima alle 10. Buona domenica da Stefano Gallarini.